Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Allargare e moltiplicare i modi in cui interagiamo con le macchine, in particolare con i robot, è uno dei filoni di ricerca più battuti dal mondo della robotica. Per esempio, in ambito industriale possiamo immaginare che il robot restituisca delle informazioni tattili al suo operatore, oppure che quest'ultimo possa comunicare con il robot anche servendosi dei gesti. Tutto questo ci porta verso un insieme di tecnologie che prendono il nome di interfacce aptiche ed è facendoci proprio spiegare di che cosa si tratta, che cosa si intende per interfaccia aptica, che diamo il via alla puntata di questa sera. Diamo quindi il benvenuto al nostro ospite Giuseppe Rofarulla, ricercatore del Politecnico di Torino e del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. Buonasera Ero. Buonasera, grazie mille. Allora, intanto le chiedo di darci una definizione. Che cos'è, cosa si intende per interfaccia aptica? Un'interfaccia aptica è un dispositivo che permette di manovrare, quindi far muovere un robot e di ricavare da questo delle sensazioni di risposta tattili, cioè tramite il tatto. D'accordo, quindi insomma noi siamo abituati, no, a guardare qualcosa che ci presenta una macchina, ad ascoltare qualcosa che ci presenta una macchina, a dargli delle istruzioni vocali ormai addirittura. Qui si passa a un'interazione che investe il corpo un po' in generale. Possiamo dire così? Esatto, questo è corretto. Guardi, il senso della vista è stato molto studiato, lo stesso vale per quello dell'udito, ci sono dei Nobel monografici su questo. Oggi l'interesse di ricerca è proprio sul tatto, che è uno dei nostri sensi primordiali e col quale ricaviamo informazioni essenziali sul mondo che ci circonda. E quindi ci si è detto, perché non fare in modo che anche i robot possano parlarci attraverso il tatto? Ecco, allora proviamo a fare qualche esempio, partendo dalla robotica industriale. Insomma, qui siamo sulla radio di Confindustria. Allora, quali possono essere, per esempio, le ragioni o le situazioni in cui è desiderabile che un robot industriale restituisca un feedback tattile a un essere umano? Se ci può fare qualche esempio. Sicuramente, partirei per semplicità dalla mia esperienza e dai miei interessi. Oggi viviamo in un mondo nel quale gli operatori lavorano sempre più a contatto con i robot collaborativi. Quindi, ad esempio, un robot è incaricato del controllo qualità di una carrozzeria, della carrozzeria, quindi di un'automobile. Se il robot, toccando la macchina, qualora vedesse dei difetti, potesse via tatto restituirmi un feedback, una vibrazione, l'entità magari di un graffio, di un bozzo che c'è sulla carrozzeria di questa macchina, l'operatore ne sarebbe subito cosciente e potrebbe intervenire direttamente. Diciamo oggi che è un modo molto più naturale di trasferire all'operatore questa informazione, perché noi tutti andremo a toccare questo oggetto per sentire l'entità, no, del danno, per esempio. Quello che, ad esempio, nel campo automobilistico, aeronautica, eccetera, gli operai hanno sempre fatto, no? Oggi ovviamente vediamo i vantaggi di lavorare con i robot nella produzione, eccetera, eccetera, ma non vogliamo nemmeno perdere l'esperienza dei nostri operatori e non vogliamo nemmeno perdere la possibilità di fare loro intervenire sul prodotto in modo naturale. In modo naturale. La chirurgia robotica è l'ambito in cui questo fatto è molto evidente, no? Abbiamo spiegato altre volte in trasmissione. Ne avete già parlato. Cioè, l'idea è affascinante che il primario americano luminare nella mia malattia mi possa operare tramite un robot, e io sono sicuro perché sono nelle mani dell'esperto, però appunto ci vuole un modo affinché le sue mani tramite robot mi tocchino veramente e capiscano cosa sta tagliando, sì, perché operando di me. Esatto, perché il chirurgo normalmente si affida molto al tatto, no? Quando opera. Ecco, ci sono poi anche degli ambiti in cui la manipolazione, diciamo, è particolarmente difficile. Esattamente, nel caso di manipolazioni microscopiche, ecco, certo, di chip ad esempio dei nostri computer oggi, o di manipolazioni complesse o complicate o pericolose per l'operatore, ad esempio rifiuti, materiale tossico, radioattivo, scarti di lavorazione, è preferibile che sia il robot a occuparsene senza però questo deve far venir meno il valore dell'operatore e quindi la sua esperienza e quindi il voler restituire feedback all'operatore. Noi pensiamo e stiamo lavorando su questo, che il tatto sia una risposta naturale. Certo, certo, sempre per quella questione proprio della naturalezza. Ecco, un'altra frontiera che è solo apparentemente lontana, ma insomma, delle interfacce aptiche è quella più in generale della comunicazione non verbale, o meglio dell'interpretazione, potremmo dire così, dei gesti. Anche il gesto è qualcosa con cui noi comunichiamo e a volte è molto più efficace. Per esempio, descrivere la posizione di un oggetto si fa molto prima a indicarlo, no? Per fare un esempio. Esattamente, questo tra l'altro è quasi uno stereotipo di noi italiani, però è vero che attraverso i gesti, no, intuitivamente riusciamo a codificare espressioni anche molto complesse, che viceversa, magari sempre per rimanere nel campo del robot, sarebbe difficile far pervenire, certo, altrimenti al robot. O richiederebbe molto tempo, no? Per esempio, una descrizione molto complicata. Esattamente, esattamente. E poi, visto che per carità non tutti abbiamo, io per primo, un dottorato in robotica, richiederebbe anche tempo nel caso dell'industria per addestrare, per insegnare all'operatore come comunicare concetti complicati con robot. Invece innatamente noi abbiamo già nel nostro cervello, nel nostro corpo, dei modi molto semplici di trasmettere informazioni complicate. Allora perché non utilizzarli? È meglio insegnare al robot a interpretare il nostro linguaggio, no, che insegnare a noi a parlare in robotico, sì, diciamo così. Questo perché è più semplice e poi anche perché permette, tramite la robotica, di creare nuovi posti di lavoro piuttosto che creare un po' degli automi, delle persone automa che debbano sottostare ai robot, diciamo. Ci sono vari punti di vista. Certo, certo, certo, certo. A me viene in mente un'altra cosa, viene in mente la modellazione 3D, no? Noi se potessimo modellare un oggetto in realtà virtuale usando le mani come se scolpissimo della creta, sarebbe fantastico. Esatto, questo era uno dei sogni della fantascienza, no? Abbiamo visto film come Minority Report, diciamo, su questi aspetti, e questa è già oggi la realtà, in piccolo, in qualche realtà industriale d'élite, ma si comincia a fare e avrà sicuramente delle prospettive crescenti nel futuro, perché permette di modellizzare oggetti anche estremamente complessi, che poi magari oggi vengono realizzati con la stampa 3D e pochi anni fa non si potevano realizzare o era assolutamente antieconomico realizzarli, andando a vedere semplicemente con le mani e magari un visore virtuale quel dettaglio micrometrico che invece mi sarebbe sfuggito, no? Quindi posso plasmare l'oggetto in maniera facile, esattamente come lo voglio io o come serve a me. E ancora una volta con grande naturalezza, no? Che è, insomma, è quello che ha segnato il successo anche dell'informatica, la capacità di diventare semplice in termini di utilizzo. Va bene, grazie Giuseppe Roffarulla. Grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.